nessuna, nessuna. Anche Doretta, Doretta, chi sarebbe? La mia nuova eroina, una cara donnina che fu presa dal mare. Che importa l'hai tal quale nell'ultima canzone? La vogliamo sentire! Ne potreste soffrire! Non fatemi pregare! E poi laggiù silenzio, il poeta Prigny, gloria della nazione, piena le nostre orecchie non andava canzone. Argomento, l'amore, il tempo passito. L'amore sempre nuovo, su poeta. Mi provo. Ma dente, ma di

Avanti dunque, indica fu la meta. Vi ringrazio. Come non partiamo? Ora per saremo, ci vuole una parola. Ci vuole una parola, e per noi, siete come voi, e poi a me. S'intona con il resto. Cambio, cambio.

e rifarti l'educazione. Questo è il mio conto, sarmi di là con ciò ti ama, non guardo ostacolo. Ti rifarò, ma sai che quasi tu sguardo in giro. Thank you.

leggero e lontanate. Ci penso io, Lisette, attenta, c'è il padrone. Dov'è, dov'è? Sta ferma. E la fido. Ha, ha, ha. Portatela laggiù. Fidatemi. Ha, ha, ha. Tu trattiela laggiù, mi raccomando. Ma visto? S'avvicina, io resto. Voi andate. Non mi muovo di qua. Incanta, non pensate. Io non penso. Buonasera, Rambaldo. Che grosso smeraldo. Lasciatemi, vi prego. Che significa questo? Mi volete spiegare? Che avete visto? Dunque niente di grave, una scappata, andiamo! Restate! No! No! E poi via, mi la volge! Ma quando sapete come si La colpa va divisa è una pioggia insistente. Anche l'albergatore ha la faccia un po' scura. Tant'era ben mi pare. Chi vola per le porte due amanti schiantati? Che importa che il segreto è più grande? Parla, dimmi, fa presto. Non l'hai indovinato. Per avere il consenso al nostro matrimonio. Ruggero, Ruggero, hai fatto questo? Perché non vuoi? Che dirti? Non so. più dirmi che fare, continuare a tacere, a confessare. Che cosa sei? Lo vedrai. prima di sera. Quali stolte intenzioni ti passan per la testa? Alla fine mai staccata troppe, troppe osservazioni. Non mi sono rivelata, ma trovando intenzioni sono stanca di tutto. Quali sono i miei sogni? I miei sogni che ti incontro, che ti incontro. L'artista d'una sera tornerà cameriera. Sarò quella d'allora se volete, ma certo, finalmente. È una donna felice, lo vedete. Torna l'anima antica a palpitare. Anche voi, anche voi, come lei, ma da dovrete se non oggi abbandonare una illusione che credete vita. Tacete! È mio dovere, ho avuto questo incarico e lo compio. Da chi? Da chi vi aspetta sa dei vostri imbarazzi ed è pronto a salvarvi in ogni modo. Non più, mi basta, ho detto tutto. Addio per sempre. Andate. Parto, con certa gente non ho più a che fare. Ne son felice. Solo una preghiera. Permettete, signora, a che ora sei libera stasera? Alle 10. Ti aspetto. Mi dia da fare subito, chissà quanto pensa di me, chi sarà senza di me. Davvero tu rimpianta, nasci da un precipizio, ma la follia pensa. Ora immediatamente vedrà, rimedierò. vicina, quel tuo viso mi spieghi. Tua madre! Leggi, leggi! Tua casa io non posso entrare. no, non del questo, no, no. Guarda il mio tormento. No! 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 L'amore appassito. L'amore è sempre nuovo, su poeta, su poeta, mi provo. Thank you.